Quali sono le novità e innanzitutto spieghiamo cos'è MAD Expo? Dunque, prima edizione di MAD Expo, un grandissimo avvenimento in quanto interpreta in Italia per la prima volta la fiera che rappresenta tutto il mondo delle costruzioni. MAD Expo nasce dal trasferimento di SAIE 2 da Bologna, ma si amplia in quanto ingloba in se stesso la manifestazione fieristica che aveva organizzato Milano l'anno scorso, Build Up, e ingloba anche il salone Europolis, per cui la riunione di questi tre in un'unica manifestazione assicura veramente questa esplosione nel mondo delle costruzioni che non era mai esistita in Italia. La novità rispetto alle diverse edizioni che mi ha detto degli anni scorsi? Diciamo questa è la prima riunita, le altre edizioni erano frammentarie, erano suddivise, ma poi soprattutto non interpretavano veramente il concetto di essere la fiera del mondo delle costruzioni, quindi effettivamente di voler rappresentare, così come oggi rappresentiamo, tutte le componenti, da quella progettuale, da quella architettonica, a quella veramente, a quella dell'edilizia, a quella dei materiali. È un comparto, rappresenta veramente il 20% del prodotto interno lordo italiano, quindi un'attenzione va dedicata in maniera assolutamente particolare a questo comparto, a questo settore e quindi a questa fiera. Si parla molto di Made in Italy, questa è una fiera internazionale, quanto è rappresentata qui l'Italia? È una fiera internazionale perché caratterizzata da una massiccia presenza di aziende italiane, aziende che però hanno trovato una grande vocazione all'internazionalizzazione. Allora, è possibile esportare il modo di costruire italiano. È un sistema, questo sistema va visto e gestito nella sua completezza e complessità, e il risultato che si può ottenere anche per chi acquista all'estero il nostro modo è veramente importante e grandioso.